arriva a Roma Capitale, la Lega scioglie le riserve. Brusca indagato per riciclaggio, potrebbe perdere lo status di pentito. Il procuratore Vigna, dal carcere boss continuano a gestire i loro beni. Banca Italisi, il PM più danni così che da una banda di rapinatori e chiede 5 anni e mezzo di carcere. Violenza in Afghanistan alla vigilia del voto, la NATO vuole più presenza italiana. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Accordo trovato dunque tra le anime del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il decreto per Roma Capitale. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Poco più di un'ora l'esecutivo ha dato il via libera al decreto su Roma Capitale. Il testo sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lunedì 20 settembre nel 140esimo anniversario della breccia di Porta Pia. Il provvedimento conferisce alla città eterna un nuovo status in linea con il suo ruolo e le dimensioni dell'area metropolitana. Dopo il varo del Parlamento mancava dunque solo il passaggio a Palazzo Chigi. Vi erano le perplessità della Lega. Il decreto porta la firma di Bossi e Calderoli. Commenta per oggi con soddisfazione il sindaco di Roma Alemanno. Ascoltiamo le sue parole. È molto importante che il Consiglio dei Ministri abbia votato all'unanimità questo decreto, quindi superando tutte quelle che potevano essere polemiche o perplessità anche da parte dei ministri leghisti. Io ho ringraziato il ministro Calderoli perché è stato determinante nell'approvazione di questo decreto. Questo è il primo passo necessario per arrivare ai poteri speciali di Roma Capitale. Vengono trasformate il Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina, vengono cambiati lo status dei consiglieri, del sindaco, della giunta e abbiamo dei poteri di funzionamento dell'Assemblea Capitolina che sono molto più snelli di quelli del vecchio consiglio comunale. Questa dunque è la soddisfazione di Alemanno ed alcuni contenuti del provvedimento, ma cosa cambia con il decreto su Roma Capitale? Ascoltiamo su questo una scheda. Rafforzare l'autonomia della capitale in ordine alla valorizzazione dei beni storico-artistici, allo sviluppo economico e sociale, a quello urbano e all'edilizia pubblica e privata. Nasce così Roma Capitale, il nuovo ente territoriale che sostituirà il vecchio comune di Roma e disporrà di una speciale autonomia statuaria, amministrativa e finanziaria. L'organo di indirizzo politico e amministrativo sarà l'Assemblea Capitolina, formata dal sindaco insieme ai 60 consiglieri. L'esecutivo capitolino dovrà dotarsi di regolamenti propri per quanto riguarda uffici e servizi e questo aiuterà a garantire una maggiore autonomia rispetto alla giunta. La giunta continuerà ad essere formata da 12 assessori, mentre il numero dei municipi non potrà essere maggiore di 15. Saranno invece affidati ad un successivo decreto da emanare entro maggio le decisioni su indennità e funzione dei consiglieri. Marco Subert, Radio 24, il Sole 24 Ore. Maggioranza dunque che conferma anche in questa occasione il rapporto più che saldo tra Bossi e Berlusconi, quest'ultimo intanto proprio nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, parlando del prossimo appuntamento di fine settembre in Parlamento, avrebbe confidato: non è in corso nessuna compravendita di parlamentari, i voti in più che avrò verranno per la maggior parte da chi è stato eletto nel centrodestra. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Interviene il presidente della commissione sui programmi di protezione, il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, sulla vicenda del pentito Giovanni Brusca. È sotto indagine per riciclaggio, fittizia intestazione di beni e tentata estorsione aggravata. Mantovano ha chiesto un'informativa urgente, sottolineando che Brusca rischia la revoca dello status di collaboratore. Intanto sono scattate perquisizioni per cercare il tesoro del pentito. Avrebbe continuato a mentire per proteggere parte dei beni accumulati con la sua attività di mafioso sanguinario. E così Giovanni Brusca, uno degli esecutori della strage di Capaci e mandante del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, oggi pentito, è finito sotto inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo con l'accusa di riciclaggio, intestazione fittizia ed estorsione. Secondo i magistrati antimafia coordinati da Antonio Ingroia, Brusca avrebbe avuto la disponibilità di un ingente patrimonio, decidendo investimenti e acquisizioni sia dal carcere di Rebibbia, sia durante i permessi premio di cui godeva, aziende, denaro, persino opere d'arte. Ecco perché i carabinieri di Monreale hanno perquisito anche la sua cella, mentre altri militari setacciavano le abitazioni di Prestanova in diverse città d'Italia, compresa la località segreta dove abita la moglie di Giovanni Brusca e dove sarebbero stati trovati quasi 200.000 euro. Nina Madore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Pierluigi Vigna era il procuratore nazionale antimafia all'epoca dell'arresto di Brusca e a Radio 24 parla così. Nel 96 non era entrata ancora in vigore la legge che disponeva, entrata in vigore nel 2001, che il collaboratore dovesse indicare tutti quanti i beni che aveva a sua disposizione oppure beni che egli sapeva a disposizione di altri mafiosi. L'essere ammesso al programma di protezione situazione non esclude che si possano poi effettuare altre indagini. Secondo lei è possibile che dal carcere gestisca questo tesoretto? I carceri sono sempre luoghi dai quali si può trasmettere, nonostante i vari 41 bis, si trova sempre da parte del detenuto il modo di lanciare messaggi, o durante colloqui, anche se avvengono attraverso un vetro, attraverso la gestualità che è propria poi dei mafiosi siciliani, o addirittura servendosi se riescono a entrare in contatto di qualche detenuto comune, o ancora quando si vedono nel corso delle udienze. È vero che c'è l'interrogatorio a distanza, ma l'interrogatorio a distanza, cioè con mezzi telematici, attraverso la TV e così via, attraverso i collegamenti fra l'aula di udienza e il tribunale e il luogo dove il soggetto è detenuto, spesso vi sono più detenuti in coda da sentire, per cui qualche messaggino può derivare. Ed era l'ex procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna. C'è una notizia dell'ultima ora, battuta proprio in questo istante dalle agenzie: due operatori delle forze speciali italiane sono rimasti feriti in Afghanistan. Non sarebbero gravi, secondo le prime informazioni, ma cercheremo di darvi altri particolari nel corso del giornale. Intanto andiamo invece a Milano. Più danni che da un'associazione che fa rapine, così sono state le parole questa mattina del PM, che a Milano ha presentato le richieste di pena per gli indagati per la vicenda della banca Italease. Raffaella Calandra. 5 anni e 6 mesi per Massimo Faenza, l'ex amministratore delegato. Per gli altri imputati, richieste di pena che vanno da 4 a 1 anno. 32 mesi dopo gli arresti dei vertici di Banca Italease, il PM di Milano Roberto Pellicano chiede queste condanne per i 7 manager e mediatori che, come un virus, scandisce l'accusa, si innestarono nella banca. Un virus che fece precipitare l'istituto, già a punto di riferimento di Piazza Affari tra 2005 e 2007, in un buco da 2,5 miliardi di euro, un buco più grande di quello del Banco Ambrosiano, secondo il difensore della nuova Italease, l'avvocato Accinni, qui parte civile. Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata ad un'appropriazione indebita per 23 miliardi, nascosta, secondo la procura, dietro contratti per derivati. Era un'associazione più dannosa di una banda di rapinatori, perché, è il paragone del PM, i danni sono ampi e ricadono sugli azionisti. Dopo la parte civile toccherà le difese. In aula c'era uno degli imputati, Claudio Calza, ma a breve la sesta sezione penale emetterà la sua sentenza. Anna. Grazie Raffaella. E lì al Tribunale di Milano questa mattina c'è stato anche un fuori programma. Sì, un fuori programma tra giustizia e politica, perché mentre davanti al giudice della prima sezione civile si sta discutendo un ricorso di una associazione contro il decreto che stabilisce la schedatura dei Rom, un ricorso che è sostenuto dall'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida, che è in corsa anche per le primarie del PD come sindaco di Milano, contemporaneamente ad un certo punto in questo stesso corridoio è spuntato Stefano Boeri, architetto, anche lui in corsa per le primarie, che stava andando nell'ufficio del presidente del tribunale Livia Pomodoro, e si ricorderà come la stessa Pomodoro nei mesi scorsi sia stata corteggiata, diciamo così, dal centro-sinistra perché scendesse in campo come aspirante sindaco di Milano. Insomma, un vertice a palazzo per vedere un vertice, diciamo, così, i futuri. Inatteso. Grazie a Raffaella Calandra, che naturalmente era lì e ha visto tutta questa situazione. Noi però da Milano andiamo invece ora a Londra, dove oggi prosegue la visita di Papa Benedetto XVI. Io saluto Carlo Marroni. Sì, buongiorno a voi da Londra. Iniziata questa impegnatissima giornata del Papa in consueti ritmi per Ratzinger, molti incontri. Già infatti la giornata ha accumulato un'ora di ritardo, anche questo è un fatto inconsueto. Partirà oggi il Papa pomeriggio con esponenti della società civile e del mondo accademico, dove farà un discorso che presumibilmente parlerà del ruolo dei cristiani in politica e del loro tentativo di emarginazione. Incontrerà poi anche l'arcivescovo di Canterbury, c'è un dialogo molto serrato, anche un po' in grosse difficoltà fra i cattolici e gli anglicani, soprattutto dopo che la Chiesa cattolica ha aperto le porte all'uscita degli anglicani e tradizionalisti, incontrerà anche gli ex primi ministri e da qui scaturiranno nuovi messaggi sul fronte della politica. E da Londra è tutto, linea allo studio. Grazie, naturalmente collegamenti anche nel pomeriggio e nella serata con Londra e con Carlo Marroni. Siamo alla pagina economica. Estate negativa per gli ordinativi dell'industria. A giugno, secondo i dati Istat, gli ordini sono calati del 2,9% rispetto a maggio, segnando la prima caduta dopo tre mesi di continua crescita. A luglio invece la flessione è stata del 3%. E i giovani imprenditori, quelli con meno di 30 anni, titolari di un'impresa individuale, sono diminuiti di 66.000 negli ultimi 8 anni. Sono i dati presentati al forum dei giovani della Confcommercio, un aumento del 10%, dicono dalla Confcommercio, produrrebbe il 20% della crescita prevista per l'Italia nel 2010. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Il primo semestre di quest'anno ha segnato una ripresa degli ordinativi e del fatturato e siamo in crescita del 7,5% rispetto all'anno scorso. L'anno scorso avevamo avuto un calo dell'8% circa rispetto al dato del 2008. Direi che il 2010 si sta dimostrando un anno in cui si potrà recuperare decisamente il terreno perso nel 2009 e forse fare anche molto meglio. Spiega così la curva della ripresa Roberto Siaga, amministratore delegato di Eurotech, società di tecnologia avanzata in provincia di Udine. Il gruppo Eurotech sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali e computer ad elevata capacità di calcolo. Ecco come ha riagganciato la crescita. Con il lavoro fatto a livello operativo sul contenimento dei costi, i dati dimostrano che si sta facendo un gran lavoro sulla parte del contenimento dei costi e anche sulla parte finanziaria e che fa sì che il 2010 possa risultare un anno di sicuro interesse dal punto di vista proprio dei numeri. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 4 sicari per uccidere il marito, così si è chiarita quella che in provincia di Treviso era stata presentata come una rapina finita nel sangue. Voleva l'eredità, una vita agiata, senza un uomo diventato per lei insopportabile. Per questo Laura De Nardo, 61 anni, per 200.000 euro ha commissionato l'omicidio del coniuge Eliseo David, ottico in pensione di 71 anni, a due suoi amanti. Non sono passate neanche 24 ore, però, ed è crollata confessando l'assassinio. Mercoledì sera la donna ha fatto entrare i killer nella sua villetta a sud di Conegliano. I due hanno sedato la vittima e l'hanno soffocata con un cuscino. Mentre gli amanti rivoltavano la casa per fingere una rapina, Laura De Nardo giocava al computer. È stata la figlia, nata da una precedente unione, disabile, a trovare la madre legata e imbavagliata e a chiamare i soccorsi. Laura De Nardo è stata arrestata ieri sera per omicidio volontario premeditato. Insieme a lei, i suoi due amanti e un terzo uomo accusato di favoreggiamento e ricettazione. Era stato lui a rivendere i gioielli e gli orologi fatti sparire da casa. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Trattative sono in corso, ma sembra difficile scongiurare lo sciopero dei calciatori. Andrea Viali. Sì, Anna, è una trattativa a oltranza quella che da questa mattina vede impegnati a Roma nella sede della Federcalcio i rappresentanti della Lega di Serie A e dell'Associazione Calciatori. Obiettivo, come dicevi, quello di arrivare ad un accordo sul nuovo contratto, accordo che potrebbe così scongiurare lo sciopero dei calciatori proclamato per il 25 e 26 settembre. L'attiva si è bloccata di fatto su due punti che sono la gestione dei calciatori fuori rosa e i trasferimenti. Stamattina, arrivando all'incontro, il presidente della Lega Beretta ha detto che chiederà di posticipare questo sciopero per avere così più tempo per trattare. Anche il numero due dell'associazione calciatori, Grosso, ha detto che è impensabile arrivare ad un accordo entro questo fine settimana. Grosso ha ribadito quella che è la richiesta del sindacato dei calciatori, che è quella di prorogare fino a settembre il contratto scaduto, questo per non correre il rischio, ha detto, di arrivare a soluzioni frettolose. Per ora dalla sede della Federcalcio è tutto. 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24. Feriti due italiani in Afghanistan alla vigilia del voto. La NATO chiede più presenza dei nostri militari. Chiesti 5 anni e mezzo per lo scandalo Banco Italisi, il PM più danni così che da una banda di rapinatori. Arriva a Roma Capitale, la Lega scioglie le riserve, ha approvato il decreto all'unanimità. Brusca indagato per riciclaggio, potrebbe perdere lo status di pentito. Il procuratore Vigna dice a Radio 24, dal carcere i boss continuano a gestire i loro beni. E riprendiamo dunque andando in Afghanistan. Ci sono maggiori particolari su quanto accaduto questa mattina. Due operatori delle forze speciali italiane, ricordiamo, sono rimasti feriti. Tutto sarebbe cominciato quando un aereo italiano, mentre sorvegliava l'area ad est di Farah, zona dove sono collocati i nostri militari, ha avvistato lungo la strada alcune persone intende a posizionare un ordigno sotto il manto stradale. Questi primi particolari arrivati proprio in questi istanti. Durante l'operazione per la cattura di queste persone che avevano piazzato poco prima un ordigno, i due militari italiani sarebbero stati feriti. Non sarebbero in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono definite da valutare attentamente. Domani una giornata importante per l'Afghanistan, perché è l'appuntamento con le urne per rinnovare il Parlamento. Poco fa il presidente afghano Hamid Karzai ha lanciato un appello alla popolazione, talebani compresi, ad andare a votare. Del tema si è discusso proprio questa mattina in una riunione della NATO, NATO che ha chiesto più presenza italiana. Il ministro della difesa Ignazio La Russa. Il tema centrale è stato quello di mantenere l'obiettivo di iniziare la consegna del comando dell'Afghanistan entro il 2011, iniziarla e poi proseguirla fino alla fine del 2013, l'inizio del 2014. Per fare questo, molto importante è l'opera degli addestratori, e in questo il ruolo dell'Italia è riconosciuto come essenziale, e anzi in qualche modo se ne richiede un incremento che naturalmente sarà Berlusconi e il governo a decidere. Così il ministro Ignazio La Russa. Come vive l'Afghanistan in queste ore? Ce lo racconta l'inviato Roberto Bongiorni. People need to laugh because it was 30 years of war and they were tired from this war and now they need to laugh. Per 20 anni Zamir Kabuli ha svolto una delle professioni più difficili in Afghanistan: far ridere la popolazione in un paese dove c'è poco o nulla da ridere. Con la sua pungente satira ha messo in luce vizi e debolezze dei potenti. La sua irriverenza l'ha pagata cara. Licenziato 3 anni fa dalla televisione nazionale, Zamir è uno dei 2500 candidati che corrono per le elezioni parlamentari afghane di domani. Accanto alla solita schiera di signori della guerra, religiosi e mujahideen, questa volta c'è però un esercito di outsider. Comici, pop star, businessmen e tante, tantissime donne. Il programma di Zamir, 39 anni, è puntato sulle infrastrutture: più elettricità, acqua corrente e lotta all'inquinamento. I was inside the people because the people wants me to be a candidate. La gente voleva che io mi candidassi, sono la loro voce. In Parlamento i politici non si curano dei bisogni della popolazione. Non c'è nulla di strano nel mio lavoro. Da noi si dice che ridere è il sale della vita, e dopo 30 anni di guerra gli afghani sono stanchi, hanno bisogno di ridere. Tra i tantissimi poster che tappezzano Kabul, spicca la gigantografia della bella Romina Jalali, un volto molto popolare tra i giovani afghani. Tutti la ricordano alle Olimpiadi del 2008 a Pechino, quando la videro sugli schermi, unica donna della piccola squadra olimpica afghana, tagliare il traguardo con i capelli coperti dal velo islamico. Arrivò ultima nella batteria, ma commosse la nazione. Nel suo ufficio blindato ci spiega il suo programma. I giovani sono più del 60% della popolazione afghana. Io li voglio rappresentare ed intendo creare un gruppo parlamentare trasversale che comunichi davvero con il governo. Voglio concentrarmi sull'educazione e sullo sport. Anche i giovani afghani devono avere il diritto di praticarlo. La politica non è il piatto forte di molti candidati, ma l'entusiasmo non manca, come a Farida Tarana. Lei deve la sua popolarità a un programma molto in voga in Afghanistan, una sorta di X Factor dove ha concorso come cantante, conquistando il cuore degli spettatori. If I elected, I want to help the youth people. Se sarò eletta, mi batterò per una migliore educazione. È la cosa più importante qui in Afghanistan. Combatterò la disoccupazione e mi dedicherò ai diritti delle donne. Education in Afghanistan because it's very necessary for Afghanistan. L'Afghanistan cambierà davvero? Yes, why not? I'm working for that. I work for bring the change. Certo, sto lavorando per questo. L'ho scritto sul mio manifesto elettorale. Aiutatemi a cambiare l'Afghanistan. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Kabul. E domani il voto in Afghanistan. Torniamo in Italia. 700.000 controlli, quasi 150 milioni di euro di merci sequestrate. Legambiente, Movimento Difesa del Cittadino pubblicano oggi il 7° rapporto sulla sicurezza alimentare. Le carni, gli allevamenti e i prodotti lattiero-caseari sono i settori più a rischio. Cina e Turchia, i paesi dai quali provengono la maggior parte delle irregolarità. Ambra Notari ha sentito Francesco Ferrante della Segreteria Nazionale di Legambiente. Intanto è molto positivo che ci sia un'attività capillare di controllo da parte delle numerose forze dell'ordine che con questo sono impegnate, su questo che è un terreno delicatissimo, perché siccome riguarda il cibo che arriva sulle nostre tavole è evidente che dobbiamo salvaguardare innanzitutto la nostra salute. Purtroppo, siccome la pressione del truffatore, anche della criminalità organizzata in alcuni casi, è sempre più forte su questo, che è un comparto, come si diceva, anche economicamente interessante, c'è bisogno di sempre più controlli, ma magari un maggior coordinamento fra le iniziative di controllo, e quindi i controlli non sono mai abbastanza, diciamo, visto che la criminalità è così, pressa così forte questo settore. Le liti ora nello sport. Anche Sacchi sembra geloso perché sta parlando troppo, deve parlare meno in televisione e anche in giornale. Se lui vuole qualcosa mi devi venire a me a parlare. Le parole sono di Ibrahimovic contro Sacchi, seconda puntata, il video dello scontro tra i due dopo la partita del Milan è tra i più cliccati su YouTube, e oggi sulla Gazzetta dello Sport Sacchi scrive: Ibra in TV si è scagliato contro di me con fare truce, sbagliando modi e toni, forse era stanco, forse mal consigliato, forse non sapeva neppure del grande affetto e della grandissima stima di cui mi onorano il presidente Berlusconi, il vicepresidente Gagliani e la tifoseria rossonera in generale. I commenti sul web sembrano dare ragione invece a Sacchi. E c'è un altro litigio nel mondo dello sport. Federica Pellegrini torna sul diverbio con Mario Balotelli, la campionessa veneta l'ha sentita Dario Ricci. Ma non è mica successo niente di grave, non ci siamo mica uccisi, nel senso, cioè non penso che non ci sia bisogno di ricomporre niente. Io ho dato un mio giudizio a un'azione che secondo me era assolutamente sbagliata e basta, ecco. Poi quello che lui ha detto può essere stata una battuta, non lo so, però sinceramente non è che mi interessi molto. Il 30 settembre, tra l'altro, sottolineo il calendario che magari può sfuggire, c'è anche un Manchester City-Juventus. Sottolineiamo anche che Federica Pellegrini è di dichiarata fede bianconera. Fede, adesso si esagera, nel senso io il calcio non lo seguo molto, però sì, diciamo che per tradizione familiare sono juventina, ecco. Beh, insomma, se Balotelli, che adesso è al Manchester City, facesse una telefonata, offrisse un 3 biglietti per vedere questa partita insieme a te e Luca Marin, il tuo fidanzato, sarebbe una bella occasione, che dici? Beh, sicuramente, bisogna vedere se quel giorno avrò gli allenamenti o no. E sentiremo ancora la Pellegrini in A Bordo Campo, in onda vi ricordo domani alle 13:15. Il MotoGP ancora per lo sport, all'indomani del rinnovo con il team ufficiale Honda, lo spagnolo Pedrosa ha fatto segnare oggi il miglior tempo nella prima sessione di prove libere dell'edizione inaugurale del Gran Premio di Aragona, Valentino Rossi, sesto tempo. Torna a suonare la chitarra di Fabrizio De André, ad imbracciarla stasera a Genova sarà il figlio Cristiano. Una straordinaria somiglianza fisica e vocale. Indimenticabile la sua esibizione nel decennale della scomparsa del padre al Porto Antico di Genova. Aveva cantato Crosa de Ma, celebrando la sua piena maturità e mostrando di essersi appropriato del patrimonio umano e artistico di Fabrizio. Cristiano De André stasera suonerà la chitarra appartenuta al cantautore genovese fino alla sua scomparsa, nel 1999. Lo strumento era stato donato alla Fondazione De André da Dorighezzi, moglie di Fabrizio, e ora 11 anni dopo le sue corde entreranno in risonanza con la nostalgia dei tanti amanti delle canzoni di Faber. L'esibizione di Cristiano, polistrumentista, diplomato in violino al conservatorio e autore di numerosi album come solista, è parte della manifestazione Palco d'Autore diretta da Pepi Morgia. È bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra, recitava Faber in Amico Fragile. E stasera quella chitarra al Porto Antico di Genova suonerà ancora. Marco Subert, Radio 24, Sole 24 Ore. Le 13:28 in regia Carmelo Lauricella. Ancora un saluto da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.